Pip, cos'è che vola? Rondine? Pipistrello, probabilmente. Mi piglia per un albero, è così cieco. Gli uccelli non hanno odorato. Ma i tempi così. Si credeva che uno si potesse trasformare in albero per il dolore, salice e piangente. Pip, eccolo là, bestiolina buffa. Chissà dove vive. Lassù nel campanile. Probabilissimo, appeso a testa in giù in odor di santità. Spaventato dalla campana, mi dà l'idea. La messa par che sia finita. Si sentivano tutti. Prega per noi, e prega per noi, e prega per noi. Buona idea la ripetizione. Stessa cosa con gli annunci. Comprate da noi, e comprate da noi. Sì. Ecco la luce nella casa del prete, il loro pasto frugale. Ricordo quell'errore di valutazione quando ero da Tom. È il 28. Hanno due case. Il fratello di Gabriel Conroy è curato. Pip, ancora. Chissà perché saltano fuori di notte come i topi. Sono una razza mista. Uccelli sono, come topi che saltellano. Cosa li spaventa, la luce o il rumore? Meglio starsene seduti. Tutti istinto come l'uccello che durante la siccità tirò fuori l'acqua da un orcio, buttandoci dentro i sassolini. È come un omino con un mantello, con quelle sue mani minuscole, ossa microscopiche. Par di vederli luccicare, specie di bianco azzurrastro. I colori dipendono dalla luce che si vede. Guarda il sole. Per esempio, come l'aquila, e poi una scarpa, non vedi altro che una macchia giallastra. Vuole mettere il suo marchio di fabbrica dappertutto. Esempio, quel gatto sul pianerottolo stamani, color torba marrone. Dice che non si vedono mai di tre colori, mica vero. Quella gatta tigrata bianca, gialla e nera del City Arms con un M in fronte, corpo di 50 colori diversi. Off, poco fa, d'ametista, vetro che lampeggia. È così che quel sapiente, come si chiamava, con lo specchio storio. Poi le eriche prendono fuoco. Non possono essere i fiammiferi dei turisti. Come? Forse i rami secchi si sfregano l'un con l'altro nel vento e si accendono. O dei cocci di bottiglie tra i cespugli fanno da specchio storio al sole. Archimede, ci sono. Non ho poi una memoria così cattiva. Pip, chissà cosa volano a fare. Insetti? Quell'ape la settimana scorsa entrò nella stanza a giocare con la sua ombra sul soffitto. Potrebbe essere quella che mi appunto, tornata a vedere. Anche gli uccelli? Mai si capisce quel che dicono. Come quando si chiacchiera tra di noi alla buona. Dice lui e dice lei. Coraggio? Ce l'hanno a trasvolare l'oceano, andata e ritorno. Un mucchio ci deve lasciare la pelle nelle tempeste, fili del telegrafo. Vita da cani anche i marinai. Quei bestioni di transatlantici che vanno in giro al buio e muggiscono come vitelli marini. Foga Ballag, fuori dai piedi, il diavolo ti porti. Altri sui battelli. Vela come un fazzoletto, sbattuti qua e là come tabacco da fiuto a una veglia funebre quando soffia vento di tempesta. E sono anche sposati, qualche volta lontani per anni in capo al mondo. Ma non c'è né capo né coda, veramente, perché è tondo. Una moglie in ogni porto, dicono. Dice ne vuole di pazienza, per starsene buone finché Johnny non torna a casa trionfante, seppur torna. Annusano i vicoli dei porti. Ma come fa a piacergli il mare? Eppure è così. Si salpa l'ancora e via sul mare con addosso uno scapolare o una medaglia portafortuna. Bene, e il tefilim, no, come si chiama, quel coso che il papà del povero babbo teneva sulla porta per scaramanzia, che ci ha portati fuori dalla terra d'Egitto fin dentro la casa del selvaggio. Qualcosa in tutte quelle superstizioni, perché quando si esce non si sa mai quali pericoli. Attaccato a un asse o a cavallo di un pennone per scampar la vita a cane. un salvagente tutto intorno, inghiottire acqua salata, ed è l'ultimo giro per Vossignoria, prima che lo acciuffino gli squali. I pesci soffrono mai il mal di mare? E poi ecco, una bella bonaccia senza una nube. Mare liscio, placido, ciurma e carico fatti a pezzettini nella pancia del serpente marino. La luna sta a guardare. Non è colpa mia, vecchio galletto. Un lungo bengala sperduto salì incerto in cielo dalla pesca di beneficenza Mairus in cerca di fondi per l'ospedale Mercer e scoppiò, ripiombando giù, e sparse intorno un grappolo di stelle viola, meno una bianca. Fluttuarono, caddero, svanirono. L'ora del pastore, l'ora del ritorno all'ovile. L'ora dei convegni amorosi. Di casa in casa, bussando due volte benvenuto come sempre, andava al postino delle 9 e la lampadina lucciola alla cintura baluginava qua e là di tra le siepi di lauro e tra i 5 giovani alberi un accenditoio levato accese il lampione di Lys Terrace, lungo schermi illuminati di finestre. Lungo giardini tutti uguali, una voce stridula andava gridando querula. Evening Telegraph, edizione della sera! Risultati della corsa della Coppa d'Oro! E dalla porta della casa di Dignam un ragazzo corse fuori e chiamò. Squittendo, qua e là svolazzava il pipistrello. Al largo, sulle secche, strisciava il flusso della marea. Grigio. Host si preparava al riposo, stanco dei lunghi giorni, dei rododendri, yam yam. Era vecchio ed era felice di sentire la brezza notturna sollevare, scompigliare la sua pelliccia di felci. Era a giacere, ma teneva aperto un insonne occhio rosso, respirando profondo e lentamente, sonnolento ma desto. E lontano, sul basso fondo di Kish, il faro galleggiante lampeggiava a tratti, strizzando l'occhio a Mr. Bloom. Che vita debbono fare quei disgraziati, sempre inchiodati allo stesso posto, direzione dei fari irlandesi. Penitenza per i loro peccati. E i guardacoste anche, razzi e salvagente e battelli di salvataggio. Il giorno che si fece quella gita di piacere sull'Erinskin, buttammo loro il sacco dei giornali vecchi, orsi allo zoo, gita bestiale, ubriachi in gita a ripulirsi il fegato, a vomitare fuori bordo per nutrire le aringhe, nausea, e le donne, timor di Dio sul volto. Millie, lei no, non aveva fifa, la sciarpa azzurra al vento, a ridere. Non sanno cos'è la morte a quell'età, e poi hanno lo stomaco pulito. Ma se si credono spersi hanno paura. Quando ci nascondemmo dietro l'albero a Cramley, io non volevo. Mamma, mamma! Bambini nel bosco. E c'è chi gli fa paura con le maschere. Buttarli in aria e ripigliarli. Ti ammazzo, sai? È proprio solo uno scherzo. O i ragazzi che giocano alla guerra. Sul serio, e come? Come fa la gente a puntarsi addosso i fucili? Delle volte parte il colpo. Poveri piccoli. Unici guai il lattime e l'orticaria. La purga al calo melano che le avevo preso per questo. Dopo la cura dormiva insieme con Molly. Ha proprio gli stessi denti. Che cosa amano? Un'altra se stessa. Ma la mattina che le corse dietro con l'ombrello, forse in modo da non farle del male. Le sentì il polso. Tic tac. Una manina. Ora grande. Carissimo papalino. Cosa non ti dice una mano quando la si tocca? Le piaceva contarmi i bottoni del panciotto. Il primo busto, mi ricordo, mi faceva venir da ridere. Capezzolini, tanto per cominciare. Il sinistro più sensibile, credo. Anche il mio, più vicino al cuore. Si imbottiscono se animò ad essere grassi. Le sue febbri di crescenza la notte, chiamava, mi svegliava, spaventata quando la natura si manifestò in lei, povera bambina. Momento particolare anche per la madre. La riporta all'adolescenza. Gibilterra. Guardando da Buena Vista, torre o ara, gli uccelli marini stridevano. Vecchia scimmia di Barbaria che si è divorata tutta la famiglia. Tramonto. Colpo di cannone per annunciare alle truppe la ritirata. Me lo disse guardando verso il mare. Serata come questa, ma limpida, senza nubi. Avevo sempre pensato di sposare un nobile o un signore ricco con un panfilo privato. Buenas noches, signorita. E l'ombre ama la muchacha hermosa. Perché io? Perché eri così diverso dagli altri? Meglio non restar qui tutta la notte attaccato come una cozza. Questo tempo intorpidisce. Devono essere quasi le 9 dalla luce. Andiamo a casa. Troppo tardi per Lia, il giglio di Killany. No, potrebbe essere ancora in piedi. Una capatina all'ospedale, per vedere. Speriamo abbia finito. Che giornata lunga è stata. Marta, il bagno, il funerale, la ditta delle chiavi, il museo con quelle idee. L'aria di Dedalus. Poi quell'ammazzasette da Barney Kiernan. Gliel'ho detto il fatto suo. Ubriachi spacconi, quel che gli ho detto del suo Dio gli ha dato una scossa. Errore reagire. Oppure? No. Dovrebbero andare a casa e ridere di sé. Sempre bisogno di bere in compagnia. Paura d'essere soli, come un bimbo di 2 anni. E se mi avesse colpito? Guardiamo l'altra faccia della medaglia. Allora, non è così brutto. Forse non voleva far del male. Tre viva per Israele! Tre viva per la cognata che si tira dietro dappertutto, tre denti in bocca. Stesso stile di bellezza. Che bella compagnia per prendere una tazza di tè. La sorella della moglie del selvaggio del Borneo è arrivata oggi nella nostra città. Immaginarsela di prima mattina a distanza ravvicinata. Ognuno ha i suoi gusti, come disse Morris quando baciò la vacca. Ma la visita a Dignam è stata l'ultima goccia. Le case a lutto così deprimenti, perché non si sa mai. Comunque ha bisogno di denaro. Devo andare dalle vedove scozzesi, come promesso. Nome buffo. Sono sicura che saremmo i primi a tirar le cuoia. Quella vedova era lunedì davanti a Kramer che mi guardava. Sotterrato il povero marito, ma ben avviata sull'assicurazione. L'obolo della vedova. Beh, cosa ti aspettavi che facesse? Deve pur tirare avanti. I vedovi non li posso vedere. Hanno un'aria così sperduta. Quel poveraccio di O'Connor, con la moglie e i 5 figli avvelenati dai datteri di mare qui, le fogne, senza sapersela cavare. Qualche brava matrona col cappello a pentolino che gli faccia da madre. Prenderselo a rimorchio. Faccia a paletta e grembiulone. Pantaloncini da donna di flanella grigia, 3 scellini al paio. Occasione sbalorditiva. Bruttina e amata per l'eternità, si dice. Brutta. Nessuna donna crede d'esserlo. Amare, mentire ed essere bella perché domani si deve morire. Quello che va in giro di qua e di là cercando di scoprire chi ha fatto lo scherzo. Su. Destino. Ecco cos'è. Lui, non io. Stessa cosa per i negozi. L'ha notato spesso. Sembra che abbia una maledizione. Sognato ieri notte. Aspetta, qualcosa di confuso. Aveva babbucce rosse, turca, portava i calzoni. E se anche li portasse? Mi piacerebbe col pigiama? Maledettamente difficile rispondere. Nannetti è andato, il postale. A quest'ora vicino a Holyhead. Devo stringere per quell'annuncio di Kiss. Lavorarmi Hines e Crawford. Sottoveste per Molly. Ha qualcosa da metterci dentro. Quello cos'è? Forse denaro. Mister Bloom si chinò. E rivoltò un pezzo di carta sulla spiaggia. Se l'avvicinò agli occhi e scrutò. Lettera? No, non si legge. Meglio andare. Meglio. Sono troppo stanco per muovermi. Pagina di un vecchio quaderno. Tutti questi buchi e sassolini. Chi ce la farebbe a contarli? Non si sa mai quel che si trova. Bottiglia con dentro la storia di un tesoro gettata da una nave alla deriva. Pacco postale. I bambini vogliono sempre buttare roba in mare. Fiducia. Pane gettato sull'acqua. Che cos'è questo? Un pezzetto di legno. Oh, ma proprio sfinito quella femmina. Non son più giovane. Tornerà qui domani. Aspettarla per l'eternità da qualche parte. Devo tornare. Gli assassini lo fanno. E io? Mister Bloom, col pezzetto di legno, tormentava delicatamente la sabbia spessa ai suoi piedi. Scriverle un messaggio. Potrebbe rimanere. Cosa? Io. Qualche piede piatto lo pesticcerà domattina. Inutile, sciacquato via. La marea arriva fin qua. Ho visto una pozzanghera vicino al suo piede. Chinarmi, vederci il mio viso, specchio scuro, soffiarci sopra, si increspa. Tutte queste rocce con linee e cicatrici e iniziali. Oh, quelle trasparenti. D'altronde non sanno cosa vuol dire l'altro mondo. Ti ho chiamato ragazzaccio perché non mi piace. Sono un. Non c'è spazio. Lasciamo andare. Mister Bloom cancellò le lettere con la scarpa lenta. Sabbia, niente da fare. Non ci cresce niente. Tutto si cancella. Non c'è pericolo che ci arrivino le grandi navi, eccettuate le chiatte di Guinness. Il giro del Kish in 80 giorni. Fatto quasi apposta. Buttò via la penna di legno. Il bastoncino cadde nella sabbia stacciata dal vento. Rimase infitto. Ecco, se cercassi di farlo per una settimana di seguito non ce la faresti. Caso. Non ci rivedremo più. Ma è stato bello. Addio, cara. Grazie. Mi ha fatto sentire tanto giovane. Se ora schiacciassi un pisolino, devono essere quasi le 9. La nave di Liverpool è partita da un pezzo. Neanche il fumo. E lei può fare il resto. L'ha fatto. E Belfast. Non ci andrò. Una trottata fin laggiù e poi di ritorno a Ennis. Faccia pure lui. Chiuder gli occhi un momento, però non dormirò. Dormi veglia. Un sogno non torna mai. Ancora il pipistrello. Nessun pericolo, solo qualche. Oh tesoruccio, tutto il tuo piccolo bianco virginale suo ho visto, sporco, brace girdle, reggicalze, m'ha fatto fare amore appiccicaticcio, noi due, ragazzaccio. Grace, cara, lei, lui, 4 e mezzo, il letto. Metti in che cosa? Pizzi, per Raoul. Profumo, tua moglie. Capelli neri si sollevano sotto l'opulent. Signorita, occhi giovanili. Malvey, grossi capezzoli. Me, furgone Van Winkle. Ciabatte rosse, lei, rugginoso, dormire. Vagare e anni di sogni, ritorno, vicoli, Agendath, svenevole amoruccio, m'ha fatto vedere la sua, l'anno prossimo, in mutande, ritorno, prossimo, nel suo prossimo, il suo prossimo. Un pipistrello volava, qui, là, lontano nel grigiore, un rintocco di campana. Mister Bloom a bocca aperta. La scarpa sinistra infilata di sbieco nella sabbia si chinava, respirava, solo per qualche. Cucù, cucù, cucù. L'orologio sul caminetto nella casa del prete tubava, mentre il canonico Ohelon e padre Conroy e il reverendo John Hughes S.J. prendevano il tè con pane e burro e cotolette d'agnello e salsa di pomodoro. E parlavano di cucù, cucù, cucù. Perché era un bel canarino, piccolo piccolo, che usciva dalla sua casetta per dire l'ora che Gertie McDowell aveva notato quella volta che c'era andata, perché aveva 100 occhi per cose del genere, la nostra Gertie McDowell, e aveva notato subito che quel signore straniero seduto tra le rocce a guardarla era.